Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La moto vola leggera e trova un ritmo perfetto. Alla mia destra fenicotteri e aironi spiccano il volo a centinaia. Non sento fatica, non sento più il dolore alle gambe, non sento più il mio corpo. Quando tre facoceri fuggono dai cespugli sul fiume e si lanciano dentro la palude, io non riesco più a contenere l'emozione. Mi chiamo Massimiliano, ho 35 anni, vivo a Siena, lavoro in banca e amo andare in moto. Voi siete qui è soprattutto la scritta che si trova in calce alle mappe di luoghi complessi. Le cartine delle metropolitane, le piante degli alberghi, dei musei. Di solito è un puntino rosso che ti dice dove ti trovi esattamente e come muoverti da lì. Ogni racconto è una minuscola presa di coscienza, un modo per osservare la propria vita da fuori, anche solo per 5 minuti, il tempo di leggere una pagina e di districarsi in quella mappa. Ecco spiegata la copertina di questo ebook. Perché nella mia ambiziosa aspirazione mi immagino che un programma e un libro come questi, mettendo insieme tutti i puntini rossi di tutti quelli che ci hanno preso parte, possa essere qualcosa di più di una semplice raccolta di storie private. Possa essere una mappa di questo paese, di questa epoca e delle persone che la vivono. Ringrazio Radio 24 che ci permette di continuare a lavorare liberamente ai nostri progetti e ringrazio anche Tiziano Bonini con cui tutti questi progetti nascono e crescono. Ma soprattutto grazie a tutti quelli che si sono presi del tempo e hanno raccontato un pezzo della loro storia. Io sono qui e voi anche. Ho finito di scrivere giusto adesso perché Bonini altrimenti mi stringeva un cappio al collo la prefazione del libro che è di fatto il primo ebook che esce, che nasce da un programma radiofonico e che sarà, si chiamerà Voi siete qui. Questo perché veramente in un eccesso di fantasia abbiamo deciso di chiamare l'ebook, che è la raccolta di alcune delle storie che sono arrivate, non tutte perché non ci stavano, abbiamo deciso di chiamarlo Voi siete qui. È praticamente in preparazione, credo che riceverete quelli, i partecipanti, quelli che sono stati scelti per comporre questo ebook, riceverete una mail, chiaramente la Margherita come al solito, in cui vi chiede una liberatoria, giusto Margherita? In cui vi chiede semplicemente che ci diate la possibilità di pubblicare online i vostri racconti. Nessuno ci guadagna niente, non ci guadagniamo noi, non ci guadagnate voi, perché tutto è gratuito. E quindi dal giorno in cui saremo al Salone del Libro, ipoteticamente, cioè da giovedì 10 maggio 2012, sarà tutto online, sarà tutto pronto. E quindi abbiamo pensato sempre un eccesso di grandissima fantasia di far uscire l'ebook il giorno in cui siamo al Salone del Libro. Lo potrete scaricare dal sito, poi vi racconto meglio com'è. Ma veniamo al Salone del Libro, perché oggi c'è un sacco di tempo, perché è una di quelle puntate in cui non c'è il GR, perché i giornalisti si trovano e parlano tra di loro, e quindi ho qualche minuto in più. E allora parliamo di giovedì 10 e venerdì 11 maggio 2012, e poi parliamo anche di sabato 12, ma una cosa per volta. Siamo in onda, come ormai da 2 anni a questa parte, il programma va in onda dallo stand di Radio 24, in diretta ovviamente, quindi dalle 16 alle 16.45. Davanti al palco dello stand di Radio 24 ci sono sempre un sacco di sedie a disposizione e quindi siete tutti invitati a partecipare. E visto che il programma è fatto dalle vostre storie, noi abbiamo pensato che era giusto, visto che siamo lì e siamo dal vivo e ci siete voi lì e siete dal vivo, abbiamo pensato che era giusto unire il Voi siete qui al Voi siete qui e ora. Cioè, abbiamo pensato che fosse giusto raccontare la storia delle persone che sono lì in quel momento, che arrivano apposta per vedere e ascoltare il programma e farlo diventare un programma per tutti quelli che ascoltano. In che modo? In un modo molto semplice. Nel momento in cui voi arrivate, possibilmente una mezz'ora prima, perché è anche un po' un esperimento quello che facciamo, magari una mezz'ora, un'oretta prima, stiamo lì, ci facciamo quattro chiacchiere e mi raccontate non un episodio della vostra vita, come abbiamo fatto in tutto il programma, mi raccontate semplicemente un episodio che vi è successo in quella giornata. Giovedì 10 se è giovedì 10, venerdì 11 se è venerdì 11. Ne scegliamo un tot di quelli che mi raccontate, uno a testa ovviamente, e io nell'arco di una mezz'oretta scrivo un racconto che è un Voi siete qui e ora delle persone presenti. Cioè attraverso un macro personaggio raccontiamo la storia che è composta dalle storie di tutte le persone che sono arrivate quel giorno lì e che quindi hanno vissuto quella cosa in quella specifica giornata. Sono riuscito a spiegarmi? Davvero? Voi siete qui e ora si chiameranno quelle due puntate speciali di Voi siete qui live dal Salone del Libro di Torino, giovedì 10 maggio, venerdì 11 maggio e poi sabato 12 un piccolo evento live che sarà, non sarà in onda, cioè non sarà in diretta ma probabilmente andrà in onda, che detto male è che vi facciamo vedere come viene costruito questo programma. Da voi portate un racconto, dalla scelta del racconto alla costruzione, alla scrittura e alla messa in onda. Questo però l'evento live, diciamo, lo chiamiamolo spettacolo di sabato 12, mentre per la diretta giovedì 10, venerdì 11, ore 16 ci sono un sacco di sedie. Purtroppo non ci sono più i puff, ragazzi. Non so, i puff ci sono stati solo nel 2010, esattamente per Vendo Tutto. Adesso i puff non ci sono più, però c'è posto a sedere. Mi raccontate un episodio di quello che vi è successo in quella giornata e lo mettiamo insieme e facciamo la storia di tutte le vostre storie. 349-238-6 mi è già arrivato un messaggio che dice: ci si può prenotare? No, non ci si può prenotare, basta arrivare al Salone del Libro e il posto lo si trova. Veniamo a oggi però, perché oggi è venerdì 20 aprile 2012, non è un venerdì qualunque, sono le 16:08 minuti, non è un venerdì qualunque perché si parla di tempeste e lo si fa grazie al racconto di Massimiliano. Il racconto di Massimiliano è uno di quei racconti in cui le persone che lo lui, diciamo, o comunque le persone che hanno scritto racconti come il suo, hanno veramente fatto, secondo me, uno sforzo in più. Cioè hanno deciso di regalare non solo un fatto della loro vita, che chiaramente è un episodio, ma una piccola, proprio un pezzo di loro, cioè che hanno, si sono messi a nudo in qualche modo, e quindi sono, diciamo, quelli che trasudano più vitalità, più vita, più energia e più forza, e per questo lo ringrazio. Massimiliano racconta di un percorso in moto che è come se fosse un percorso in una tempesta, attraverso una tempesta, la vede arrivare, ci passa in mezzo e ne esce. Di questo che si parla oggi, si parla della tempesta che avete attraversato e da cui siete usciti. 349-238-6666. Francesca: la mia tempesta dura ormai da 2 anni, forse a settembre si aprirà uno spiraglio di luce e non ho ancora smesso di sperare. E poi è arrivato un messaggio di Benedetta, che era un messaggio molto molto lungo, che ha a che fare con una malattia da cui è uscita. Però sono 3 righe del suo messaggio che raccontano che uno dei modi per uscire dalle tempeste probabilmente sono le persone che amiamo e non solo quelle più strette. E dice: in questo mese difficile non ho ricevuto amore solo dagli affetti più cari, ma ho trovato un grande sostegno in amici lontani che avevo perso lungo la via, chi con un abbraccio mi è venuto a trovare, chi mi ha telefonato con costanza e insistenza anche quando non avevo voglia di rispondere. 349-238-6666, l'ultimo messaggio e poi lanciamo un racconto di Massimiliano. Leglio: tempesta reale, vissuta veramente, durante una Sky Marathon in Valtellina, sotto la grandine a 2500 metri, in magliette e pantaloncini. L'unica salvezza: correre il più forte possibile, per scaldarsi e scendere a valle il più velocemente che si poteva, verso il traguardo e verso la fine della tempesta. 349-238-6666. La vostra tempesta ha questi messaggi, altrimenti la tempesta di Massimiliano è questa qui. Ci alziamo molto prima dell'alba e cominciamo subito a preparare le moto. Ieri l'idea di andare a vedere l'alba nel deserto della Mauritania mi sembrava un'ottima idea. Adesso però mi dico che di albe ne ho già viste un sacco, che tanto sarà uguale a tutte le altre. Partiamo e per uscire dalla città già a quest'ora incontriamo un traffico intenso e caotico, come solo questi posti in Africa possono esprimere. Anche a quest'ora la povertà che vedo intorno mi lascia senza fiato e i bambini sono già in strada, in mezzo ai rifiuti. Ne usciamo, vediamo l'alba con lo sfondo del Sahel. Bella, sì, ma la sveglia alle 5:30 ancora pesa. Vado in moto perché mi piace da ormai tanti anni. Un giorno ho scoperto che andare in moto anche in paesi un pochettino più lontani e un pochettino più rischiosi non era una cosa impossibile, ma era una cosa effettivamente banale alla portata di tutti, e da allora ho iniziato ad andarci. Attraversiamo villaggi e piccoli paesi come ormai ne abbiamo visti a decine. Poi a un tratto io comincio a stare male. Siamo rimasti in 3 e ci siamo allontanati dagli altri. Sento le mie pulsazioni salire. Merda, un attacco d'ansia nel mezzo del Sahel in Mauritania potevo evitarmelo. Invece sarà il malarone che ho iniziato a prendere qualche giorno fa, saranno i miei trascorsi. E invece quel malessere arriva. Torno indietro, finisco sdraiato sul rimorchio del nostro mezzo di assistenza, con gli amici che mi misurano la pressione. Un'oretta di sosta, le voci amiche dei miei compagni di viaggio e sto un po' meglio. Meno male, ripartiamo. Vogliamo arrivare a Diama per attraversare la frontiera ed entrare in Senegal.

Cos'è, un posto o è il nome di chi ha scattato la foto? Niente, mi sto impelagando in un delirio di roba. Ecco, la sua bella moto è una GS, una BMW 1200, di quelle su cui carichi praticamente la casa. È vestito da motociclista, ha gli occhiali da sole, ha lo sguardo dietro gli occhiali da sole, non lo vedo, ma immagino essere quello di qualcuno che vuole andare lontano. Mamma mia, che roba che ho detto, mi si stanno carriando i denti da sta roba. 349-238-6666, potete dire che canzone avete trasmesso la prima dopo il racconto? Elena, la prima si chiama The First Day of My Life, è un gruppo che si chiamano Brightside, ma comunque tutte le canzoni le trovate sul sito delle 24, la nostra pagina, quelle che mandiamo in onda. E c'è qualcun altro che mi chiede delle basi invece sul profilo Facebook, facciamo che magari semplicemente rilinkiamo il canale YouTube dove Tiziano ha praticamente messo insieme tutte quante le basi che utilizziamo per i racconti, che sono quelle che trova lui, che cerca lui, e il merito quindi è suo. Siamo su di citazioni marinaresche, eh? Un vecchio capitano mi disse una volta che la cosa grave non è tanto la tempesta, è quando ti mettono di botte. Adesso chiedi che cosa significa. No, non lo chiedo perché so cosa significa, ma non sarò sicuramente io qui a spiegare che cos'è la comandata di botte su una nave, che cosa vuol dire essere messo in una botte e che cosa si fa in quella botte o attraverso quella botte. Comunque probabilmente ha ragione lui, è molto meglio la tempesta. E visto che si parla di tempeste, non potevamo non citare uno dei pezzi di marinareschi più famosi, l'autore Joseph Conrad, il titolo è Tifone. Dobbiamo confidare che passi attraverso il tifone e arrivi all'altro lato. Questo è ovvio. Non c'è posto qui per la strategia delle tempeste del capitano Wilson. Per ore sarà sommersa e spazzata dai marosi, mormorò il comandante. Non rimane molto ormai in coperta che il mare possa portar via, tranne lei o io. Non si lasci scoraggiare da niente, continuò il capitano, borbottando piuttosto in fretta. La tenga con la prua al mare. Possono dire quello che vogliono, ma le onde peggiori corrono con il vento. La prua all'onda, sempre la prua all'onda. È questo il modo di cavarsela. Lei è un marinaio giovane. Affronti la tempesta. Ce n'è abbastanza per qualsiasi uomo. Non perda la testa. Sì, signore, disse Juke con una stretta al cuore. La nave arrancava senza sosta tra le nere montagne d'acqua, pagando con quel violento traballare lo scotto della sua esistenza. Rombava nelle proprie viscere, lanciando un candido pennacchio di vapore nella notte. E il pensiero di Jukes volò come un uccello nella sala macchine, dove il signor Root, uomo coraggioso, era preparato. Quando il rombo cessò, gli parve che vi fosse un'interruzione di ogni suono, una spenta pausa nella quale la voce del capitano McQueer squillò facendolo trasalire. «Cos'è quella? Una raffica di vento?» Il capitano parlava più forte di quanto Jukes lo avesse mai udito. «Di prora, esatto, può ancora cavarsela». Il rumoreggiare del vento divenne rapidamente più vicino. Sul fronte del vento si poteva udire un sonnacchioso, ridesto gemito e in lontananza l'espandersi di un multiplo clamore che avanzava e si ampliava. V'erano in esso un rullare come di innumerevoli tamburi, una minacciosa nota dilagante e qualcosa di simile al canto di una moltitudine in marcia. Jukes non riusciva più a scorgere con chiarezza il comandante. Le tenebre si stavano ammonticchiando inesorabilmente sulla nave. Tutt'al più intravedeva movimenti, i gomiti sporti in fuori, la testa che si alzava. Il capitano McQueer stava cercando di allacciare l'ultimo bottone dell'impermeabile di cerata con una frenetica fretta. L'uragano, con la sua capacità di far impazzire i mari, di affondare navi, di sradicare alberi, di abbattere mura robuste e di scaraventare al suolo gli uccelli stessi dall'aria, aveva incontrato sul proprio cammino quest'uomo taciturno e, impegnandosi al massimo, riuscì a strappargli qualche parola. Prima che la furia rinnovata dei venti si scagliasse sulla nave, il capitano McQueer fu indotto a dichiarare, quasi in tono infastidito, «Non mi piacerebbe perderla». Part of the night, I'm gonna walk to Cristina, è inutile che me lo chiediate, non vi dico che cosa significa essere di comandata di botte, andate a cercarvelo su Google. E ricevo in questo momento la mail di Margherita Ina che mi dice: ce l'ho fatta, ho raccolto tutti i racconti, l'ebook è pronto e stanno partendo, immagino, la richiesta per le liberatorie, quindi le riceverete a breve. Grazie a lei, grazie a Tiziano Bonini e a Paolino Corleoni. Finisce anche questa settimana. La storia di oggi era la storia di Massimiliano e parlava di tempeste. Quella di lunedì invece è la storia di Maurizio e parla di città che mettono paura. Per i primi 20 minuti tutto bene. Svoltiamo a sinistra e in quel momento spuntano due persone dal baule della macchina. Mi prendono per il collo e iniziano a urlare di stare tranquillo e di abbassare la testa. Ecco, in questo preciso momento ha inizio il mio primo e fino ad oggi unico sequestro.